Dal piano di sopra sentii delle arie di Manon suonate da una vicina. Poiché ne conoscevo le parole, le applicai ad Albertine e a me, e fui invaso da un sentimento così profondo che mi misi a piangere. Era, ahimè, l'uccello che fugge dalla creduta prigione il più delle volte, a notte, con volo disperato torna a battere ai vetri. E la morte di Manon. Manon, perché non mi rispondi? Amore, mio unico amore, solo adesso conosco la bontà del tuo cuore. Siccome Manon tornava da Degrieux, mi sembrava che io fossi per Albertine l'unico amore della sua vita. Ahimè, è probabile che se Albertine in quel momento avesse sentito la stessa aria, non certo la mia persona avrebbe vagheggiata sotto il nome di Degrieux. E se una simile idea l'avesse anche solo sfiorata, il mio ricordo le avrebbe impedito di commuoversi, ascoltando quella musica che pure apparteneva, sebbene meglio scritta e più fine, al genere che lei amava. Quanto a me, non ebbi il coraggio di abbandonarmi alla dolcezza del pensiero che Albertine mi chiamasse mio unico amore e avesse riconosciuto d'essersi sbagliata circa la creduta prigione. Sapevo che non si può leggere un romanzo senza prestare all'eroina i tratti di colei che si ama, ma per quanto felice possa essere il finale del romanzo, il nostro amore non fa un solo passo avanti. E una volta chiuso il libro, colei che amiamo e che nel romanzo è infine venuta a noi, non ci ama nella vita più di quanto ci amasse prima. Furioso, telegrafai a Saint-Loup di tornare al più presto a Parigi per evitare almeno di aggiungere l'aggravante dell'insistenza a un'iniziativa che avrei tanto voluto tener nascosta. Ma prima ancora che, seguendo le mie istruzioni, egli fosse tornato, ricevetti dalla stessa Albertine questo telegramma. Amico mio, avete mandato il vostro amico Saint-Loup da mia zia. Una vera insensatezza. Mio caro, se avevate bisogno di me, perché non scrivermi direttamente? Sarei stata felicissima di tornare. Non prendete più iniziative così assurde. Sarei stata felicissima di tornare. Se diceva così, allora era segno che rimpiangeva d'essersene andata, che cercava solo un pretesto per tornare. Dunque bastava che facessi come diceva, che le scrivessi che avevo bisogno di lei, e lei sarebbe tornata. Stavo dunque per rivederla, lei, l'Albertine di Balbec. Lo era infatti ridiventata per me dal momento in cui se n'era andata. Come una conchiglia alla quale non facciamo più caso quando è sempre lì sul nostro cassettone e poi, una volta che ce ne siamo separati per regalarla o per averla perduta, ci pensiamo come non ci era più accaduto. Albertine mi ricordava tutta la lieta bellezza delle azzurre montagne del mare. E non soltanto lei era diventata un essere dell'immaginazione, cioè desiderabile, ma la mia vita con lei era diventata una vita immaginaria, cioè affrancata da ogni difficoltà, tanto che mi dicevo come saremo felici. Ma dal momento che avevo la certezza del suo ritorno, bisognava non dare l'impressione di volerlo affrettare e anzi cancellare il brutto effetto della missione di Saint-Loup, che in seguito avrei sempre potuto sconfessare dicendo che aveva agito di sua iniziativa perché era sempre stato un fautore del nostro matrimonio. Rileggendo la sua lettera, ero peraltro deluso nel vedere quanto poco ci sia di una persona in una lettera. Certo, i caratteri tracciati esprimono il nostro pensiero, non diversamente da quel che fanno i nostri lineamenti. Ci troviamo, pur sempre, in presenza d'un pensiero. Ciò non toglie che nella persona il pensiero ci appaia solo dopo essersi diffuso nella corolla del viso, tutta aperta come una ninfea, il che comunque lo modifica alquanto. E tra le cause delle nostre perpetue delusioni in amore ci sono, forse, le perpetue deviazioni per cui alla nostra attesa dell'essere ideale che amiamo, ogni convegno offre una persona di carne che già assomiglia così poco al nostro sogno. E poi, Quando a questa persona chiediamo qualcosa, ne riceviamo una lettera in cui della persona stessa rimane ben poco, così come nelle lettere dell'algebra non rimane la determinazione delle cifre dell'aritmetica, le quali, a loro volta, non contengono più le qualità dei frutti o dei fiori addizionati. E pensare che forse l'amore, l'essere amato, le sue lettere sono altrettante traduzioni, per insoddisfacente che sia il passaggio da una cosa all'altra, della medesima realtà, giacché la lettera ci sembra insufficiente solo quando la leggiamo, mentre sudiamo morte e passione finché non arriva, e basta a calmare la nostra angoscia se non a soddisfare con i suoi piccoli segni neri il nostro desiderio, che sente come essa non contenga comunque più dell'equivalente d'una parola, d'un sorriso, d'un bacio, non quelle cose stesse. Scrissi ad Albertine: «Amica mia, stavo proprio per scrivervi e vi ringrazio d'avermi detto che se avessi avuto bisogno di voi sareste accorsa. È bello, da parte vostra, intendere in modo così elevato la devozione per un vecchio amico e non può che accrescerne la mia stima per voi. Ma no, non ve l'avevo chiesto e non ve lo chiederò. Rivederci, almeno per molto tempo ancora, non sarebbe forse doloroso per voi, fanciulla insensibile? Per me, che a volte vi sono sembrato tanto indifferente, lo sarebbe molto. La vita ci ha separati. Voi avete preso una decisione che ritengo molto saggia e l'avete presa al momento giusto, con un presentimento meraviglioso, perché ve ne siete andata il giorno successivo a quello in cui avevo ricevuto da mia madre il consenso a chiedere la vostra mano. Ve l'avrei detto al mio risveglio, quando ho avuto, assieme alla vostra, la sua lettera. Forse a quel punto avreste avuto paura, partendo, di darmi un dolore, e avremmo forse legato le nostre vite per qualcosa che sarebbe stato per noi, chi può dirlo, l'infelicità. Se doveva essere così, siate benedetta per la vostra saggezza. Rivedendoci ne perderemmo ogni frutto. Non che non ne provi io la tentazione, ma non ho gran merito a resistervi. Sapete quale essere incostante io sia e come faccia presto a dimenticare. Insomma, non sono poi tanto da compiangere. Me l'avete detto spesso, per me contano soprattutto le abitudini. Quelle che comincio a prendere senza di voi non sono ancora molto forti. Per ora, evidentemente, le più forti sono ancora quelle che avevo assieme a voi e che la vostra partenza ha scompigliate. Non lo saranno per molto. Proprio per questo, anzi, avevo pensato di approfittare di questi ultimi giorni in cui incontrarci non sarebbe ancora per me, come sarà fra una quindicina di giorni, forse prima, scusatemi la franchezza, un disturbo, avevo pensato di approfittarne prima dell'oblio finale per sistemare con voi certe piccole questioni materiali nelle quali avreste potuto, mia buona e cara amica, essere utile a chi si è creduto, per 5 minuti, il vostro fidanzato. Poiché non dubitavo dell'approvazione di mia madre, e d'altra parte desideravo che ciascuno di noi avesse quella libertà di cui mi avete fatto, con eccessiva gentilezza e larghezza, un sacrificio ammissibile per una vita in comune di qualche settimana, ma che sarebbe diventato odioso a me non meno che a voi, ora che dovevamo passare insieme tutta la vita, mi dà quasi dolore scrivendovi pensare che stava per essere così, che è stata questione di pochi secondi. Avevo pensato di organizzare la nostra esistenza nel modo più indipendente possibile e, per cominciare, avevo voluto che aveste quello yacht che vi avrebbe reso possibile viaggiare mentre io, stando troppo male, vi avrei aspettata al porto. Poiché apprezzate il suo gusto, avevo scritto a Elstir per chiedergli consiglio. Quanto alla terra, avevo voluto che aveste un'automobile vostra, soltanto vostra, con la quale uscire, viaggiare, a vostro piacimento. Lo yacht era già quasi pronto, si chiama, secondo il desiderio da voi espresso a Balbec, il Cigno. E ricordando che fra tutte le vetture preferivate le Rolls, ne avevo ordinata una. Adesso, che non ci vedremo più, e poiché non spero di farvi accettare né la barca né la vettura, per me non avrebbero alcuna utilità, avevo pensato, dal momento che le avevo ordinate tramite un intermediario, ma dando il vostro nome, che avreste forse potuto, disdicendo voi l'ordinazione, sbarazzarmi di questo yacht e di questa automobile inutili. Ma per questo e per parecchie altre cose sarebbe stato necessario parlarci. E fin tanto che sarò suscettibile di riamarvi, cosa che non durerà a lungo, penso che sarebbe una follia per una barca a vela e una Rolls-Royce vederci e mettere a repentaglio la felicità della vostra vita, dato che essa, a vostro giudizio, consiste nel vivere lontana da me. No. Preferisco tenermi la Rolls e persino lo yacht. E visto che non me ne servirò, ed è probabile che resteranno sempre, questo in disarmo nel porto e quella in rimessa, farò incidere sul... dello yacht, mio Dio, non ho il coraggio di indicare in modo sbagliato un pezzo, commettendo un'eresia che vi scandalizzerebbe, quei versi di Mallarmé che vi piacevano. En signe d'autrefois, se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Ricordate? È la poesia che comincia con Le Vierge, le vivace e le belle aujourd'hui. L'oggi, ahimè, non è più né vergine né bello. Ma chi, come me, sa che lo tramuterà ben presto in un domani sopportabile, è lui pressoché insopportabile. Quanto alla Rolls, avrebbe meritato piuttosto dello stesso poeta questi altri versi che voi dicevate di non capire. Tonnerre rubì au moyeu, dissi je ne suis pas joyeux, de voir dans l'air que ce feu trou. Flambé les royaumes épars, que mourir pourpre la roue, du seul vespral de mes chars. Addio per sempre, piccola Albertine, e grazie ancora per la bella passeggiata che facemmo insieme alla vigilia della nostra separazione. Ne serbo un bellissimo ricordo. Post scriptum. Non rispondo a quanto mi dite circa presunte proposte di Saint-Loup, che d'altronde non credo affatto si trovi in Touraine, a vostra zia. È puro Sherlock Holmes. Che idea vi fate di me? Certo, come un tempo avevo detto ad Albertine, non vi amo perché lei mi amasse. Dimentico quando non vedo perché mi vedesse molto spesso. Ho deciso di lasciarvi per prevenire qualsiasi idea di separazione, così adesso... Era perché volevo assolutamente il suo ritorno che le dicevo addio per sempre. Perché volevo rivederla che le dicevo riterrei pericoloso vedervi. Perché vivere separato da lei mi sembrava peggio della morte che le scrivevo avete avuto ragione insieme saremmo infelici. Ahimè, quella lettera finta avrei dovuto prevedere subito mentre la scrivevo per mostrare che non tenevo a lei, unica fierezza rimasta nell'amore per Albertine, del vecchio amore per Gilbert, e anche per la dolcezza di dire certe cose capaci di commuovere me solo, non lei, che avrebbe potuto avere per effetto una risposta negativa, tale cioè da consacrare quel che dicevo. Che questo era addirittura probabile, visto che Albertine fosse anche stata meno intelligente di com'era, non avrebbe dubitato un solo istante della falsità di quel che dicevo. Senza nemmeno soffermarsi sulle intenzioni da me enunciate nella lettera, il solo fatto che io le scrivessi sarebbe bastato, anche nel caso che non ci fosse stata prima la missione di Saint-Loup, a provarle che desideravo il suo ritorno e a suggerirle di lasciare che mi infilzassi sempre più crudelmente nell'amo. Dopo aver previsto la possibilità di una risposta negativa, avrei poi dovuto prevedere che tale risposta mi avrebbe restituito di colpo in tutta la sua vivezza il mio amore per Albertine. E, sempre prima di inviare la mia lettera, avrei dovuto chiedermi se nel caso che Albertine mi avesse risposto nello stesso tono e non fosse voluta tornare, io sarei stato tanto padrone del mio dolore da costringermi al silenzio, da non telegrafarle «tornate» o mandarle qualche altro emissario. Il che... Dopo averle scritto che non ci saremmo più visti, equivaleva a dimostrarle con assoluta evidenza che non potevo fare a meno di lei, e avrebbe fatto sì che lei rifiutasse ancora più energicamente che io, non potendo più sopportare la mia angoscia, corressi da lei, chissà, senza esser forse neanche ricevuto. E questo sarebbe certo stato, dopo 3 enormi sbagli, il peggiore di tutti, dopo il quale non mi restava che uccidermi davanti a casa sua. Ma il modo disastroso in cui è costruito l'universo psicopatologico vuole che l'atto maldestro, l'atto che bisognerebbe evitare più di ogni altro, sia precisamente l'atto calmante, l'atto che, schiudendo per noi, sinché non ne conosciamo il risultato, nuove prospettive di speranza, ci libera momentaneamente dall'intollerabile dolore che il rifiuto ha fatto nascere in noi. E così, quando il dolore è troppo forte, precipitiamo nello sbaglio che consiste nello scrivere, nel supplicare tramite qualcuno, nell'andare di persona, nel rivelare che non si può fare a meno di colei che si ama.